pochettino, ah, perché si è vestito così. Però oggi è pal serio. E c'ha paura. Paura. Con le lucette. I passeggeri sono scesi. Nel no. Anche no. Io ho portato, sai, ho fatto fare il servizio alle ostriche, con i capelli che sono bravi. Vediamo il brutto e il bello. Finché il beve, dai che dai, gradezza. Adesso la canzoncina, perché tutta la storia... Esatto, perché la spiega a Calù. Sì, allora senti la storia del razzismo. Sì, ma... Allora, fa un sunto, però. Aspetta. Ah. Un sunto. Dai un bicchiere. Un sunto, sì. Un riato sunto. No, ieri era bicchieri... Fede, belli questi bicchieri. Bicchieri puliti, che c'è qua. Appena dato. Ah, perché gli era... Fede, no, ma che dopo? No, no, no, la registrazione. Sì, sì, grazie, Fede. Allora, va su, va su, va su. La mette sulla tomba la registrazione, senta. La mette sulla tomba. Quando c'è uno, manca la cosa e siete in casa. Grazie, grazie, amore. Hai sentito la ringa? Cioè, adesso, anche nel cominciamo, ma senta, con la foto anche. Foto e cose, manca il bottone e vedi la registrazione. Allora, sta canzone, no, la storia con la canzoncina. Beh, Paolo, Paolo Andreletto, sei Trevisan? Sì, sì, sì. Sì, ne capiamo alla grande. No, penso di sì. Dai, sì. Sì, sì, sì, dai, dai. Allora, è un problema grosso. Però, sento, ma dico, fa riassunto sto giro, dai. No, è un assunto, insomma, vediamo che la spiega, perché sennò... allora... I piloti, un neurone. Uno, sì. Uno, sì. 100 parole. 100 recettori della parola, linguaggio semplice. Sì, sì. Ok. Sito Statia porteria Becca lì dalla Tunisia. Sì, sì, che avevo passato. Non le cantava più, lei a Cagliari, no, lei a Malta, no. Mi pare che hanno visto lì a Pozzo Moretto. Quelle Tunisi, che scappa. Lei a Cagliari, ma forse lei era un signore che era lì, ma le conosci di via? Forte, fortissimo. Dopo Fede. Vabbè, allora Femdi con le radici. Le radici è una canzoncina che... naturalmente stronza che io faccio ogni tanto, purtroppo a volte invece fa il bacà seriamente, faccio non seriamente il bacà e non seriamente anche il cantore, non faccio niente di serio, a volte con mia suocera faccio lo serio, quella è un'altra roba. È una canzoncina che noi abbiamo fatto perché aspetta, com'è? In che anno era nata? È nata 10 anni. Anche con me, poca soddisfazione. Comunque si chiama i radici ovviamente, i radici, perché una volta con mio amico era in un mercato tipo quello di Villafranca, il Catolù, e andiamo a prendere la figlia alla scuola materna, non all'esilio, e io con lui andiamo là, e la suora superiore che ci viene incontro mi fa, a me vedi il sacchetto dei radici che vai a comprare durante la... E fa, la me fa la suora, perché i preti, le suore, secondo me, li da sempre come Bertone, vero? Gli occhi di là, E la me vedi i radici nel sacchetto, e la me fa, non doveva disturbarsi, la me fa la suora. Ma mi, proprio, come serene sotto le feste, cioè, non anti serene qua, le feste era sotto, o viceversa, e mi tocca dargli i radici, e lì abbiamo fatto la canzoncina. E le un venerdì d'inverno mi fa male allo sterno, e decisi come feci di comprarmi due radici. Ed insieme ad Alfonso, e che penso quando posso, mi avvicino al banchetto, sono timido discreto, e il medaglia per piacere, 8 gambe col sedere, chiedo 1500, pago tutto e non mi pento, e andemo tutti quanti nell'asilo di ogni santi, a tor sulla buteletta dalla faccia tutta netta. Si presenta la Michela, santa donna purela, e sorpresa degli arrivi la ne accoglie come vivi, te porta per queste feste, non il pane, il vin, le seste, ma un sacchetto molo molo dei radici presi al volo. C'è un